24 mattino. Buongiorno, buongiorno già svegli, di nuovo qui in diretta. Ricordatevi il numero della segreteria con i tanti messaggi che ci lasciate: 0246524492, e il numero degli SMS con cui state puntellando questa puntata di oggi: 349-238-6666. Ma voglio partire dal tema più drammatico di oggi e da una telefonata shock di ieri. È stato accertato dalla visita ginecologica che c'è stato un rapporto più bella figura sessuale, se chiude qua. Ma non c'è stata cosa che le ragazze hanno chiesto loro di essere accompagnate a casa. Ma che c'è? Tu stai dicendo che E quindi? Riprendiamo domani, ragazzi. Ma no, ma rinchiudetelo domani. Ma rinchiudetelo. Fermi todos, ragazzi, se finì. E allora questa era una telefonata proprio sul finire della zanzara di ieri, però era una delle tante telefonate in cui si raccontava questa versione, non supportata da nessuna evidenza e da nessun racconto. Anzi, ieri ricorro alle cronache di Amadore Agostini sul Quotidiano Nazionale e sul Messaggero di Cristiana Mangani. Ieri è comparso il secondo carabiniere. Compare per la prima volta una foto, uno scoop, diciamo così, di Agostini, sempre sul Quotidiano Nazionale, di Marco Camuffo, il primo carabiniere, un signore col cranio calvo e i Ray-Ban. E poi oggi c'è il racconto di cosa ha raccontato Pietro Costa, 32 anni, originario di Palermo, carabiniere scelto. Era la seconda volta, ci racconta sul Messaggero la Mangani, era la seconda volta che uscivano in pattuglia. La sua versione è una testimonianza fotocopia rispetto a quello del capopattuglia Marco Camuffo, con la differenza che il siciliano avrebbe enfatizzato ancora di più il consenso e il comportamento delle ragazze a quello che è accaduto. Ho fatto un errore, ha ammesso, ma non ho violentato nessuno. Lei era d'accordo, anzi, per dire tutta la verità, tutte e due erano d'accordo. Sono state loro a insistere per farci salire a casa. E voi sapete che questo è determinante. Ancora alterno il titolo del Quotidiano Nazionale: erano consenzienti, e l'interrogatorio finisce in lacrime. Pensate. L'indagato è stato accompagnato dall'avvocato Andrea Gallori e in questi giorni, scrive il Messaggero, nonostante la grande pressione dettata dalla gravità della situazione, ha continuato a fare molte resistenze all'accusa di violenza. È considerato da tutti un bel ragazzo, non avrebbe avuto bisogno, dicono, di violentare una donna. È il commento che si lasciano scappare le persone a lui più vicine. Però la dinamica dei fatti non fa che confermare quanta arroganza, prepotenza e sicurezza di poterla fare franca ci sia dietro questa bruttissima vicenda. Un'altra ricostruzione sul Corriere della Sera, quella di Fiorenza Sarzanini, ripercorre i tempi minuto per minuto e dice che c'è un'ora di buco nella ricostruzione. Un altro dettaglio importante, di nuovo dal Messaggero: il DNA e l'analisi degli abiti, oltre alle tracce biologiche rinvenute nel palazzo fra l'androne e l'ascensore, confermano ci sono i tamponi. Non ci sono purtroppo, attenzione, questo è importante, i risultati, né ci potranno essere, degli eventuali esami eseguiti sulle divise indossate dai due indagati, perché quando si è pensato di sequestrarle era ormai troppo tardi. Questo era il Messaggero, questa era la storia che sta appassionando l'Italia. Non c'è nessun fondamento per dire che queste due versioni sono vere, perché, come scrivono i PM, se fossero stati come dire, così ubriache, perché loro li avrebbero fatte salire in macchina violando il regolamento? Perché erano ubriache. Ma se erano così ubriache, come potevano essere consenzienti? Quindi una delle due cose è falsa: o erano così ubriache che erano portate e quindi si è approfittato di loro, oppure erano lucide e allora la versione non tiene. Passiamo alla vicenda più importante, il nucleo che tiene insieme lo Ius Soli, la polemica sulla memoria e la polemica sulle veline. Intanto lo avete sentito dal radiogiornale: Zanda, non abbiamo una maggioranza, è stata una dichiarazione di resa. E questa la frase, il capogruppo del PD sul Corriere della Sera, pagina 5, il pezzo di Trocino, è questo il guantone gettato come nella box. Le leggi hanno bisogno di una maggioranza e in questo momento questa maggioranza non c'è. Se non è un De Profundis, scrive Trocino, ci va vicino, perché le dichiarazioni del capogruppo dei senatori del PD arrivano contemporaneamente alla sparizione della legge dello Ius Soli dal calendario di settembre dei lavori dell'Aula. Ma era quello che vi avevamo detto quando ci fu lo stop prima dell'estate, avevamo detto questa legge è morta e, come avete visto, ci coprivano di insulti. Vili giornalisti, ma ogni tanto ci prendono. È molto importante il retroscena di Massimo Franco, perché è l'unico che spiega come si è arrivati a questa caporetto, diciamo così, parlamentare. Allora, nate quando non si escludeva la possibilità di elezioni anticipate e dunque si pensava potessero tradursi in voti, queste leggi, tra cui lo Ius Soli, scrive Franco, si stanno rivelando un boomerang. Sia chiaro, fermarsi e ammettere che non si può rischiare il governo per lo Ius Soli è un gesto di responsabilità, è un ritorno alla realtà. Ma c'è da chiedersi se un epilogo del genere non potesse essere previsto prima, senza regalare voti e inni di vittoria agli avversari. Giustissimo, molto giusto, perché questa è la domanda che si fanno tutti. Pensate, sempre dal Corriere, il pezzo di Martirano: sono 64 le leggi sorprese mentre passa il primo sì alla legge sul reato di violenza fascista. Allora, sullo Ius Soli vi ho detto, ma è molto interessante la questione della velina di Striscia la Notizia. Viene annunciata da Ricci, arriva questo diluvio di insulti, dobbiamo sempre chiedersi, qualcuno dice sono come le scritte nei bagni degli autogrill, sì, però non era mai accaduto. E allora Gramellini, il caffè, oggi da leggere. Gentile Micaela Neazze Silva, come velina bionda di colore della prossima edizione di Striscia, scrive Gramellini, lei è diventata l'ultimo pretesto di questa ridicola contesa intorno alla purezza della razza, meno pura del mondo, quella italiana. Fra i commenti della rete, ripresi con preoccupazione dai siti giornalistici, c'è chi l'accusa di togliere il lavoro alle bionde nostrane, per tacere delle svedesi, chi la considera uno spot a favore dei migranti, chi minaccia lo sciopero del telecomando fino a quando Ricci non sostituirà la bionda africana, così, fra virgolette, con una sosia della Cuccarini o almeno della Hunzinger, che è confinante. I suoi oppositori ignorano, scrive Gramellini, che fra le tante lingue da lei parlate c'è il dialetto ligure, perché lei vive fra Camogli e Genova dall'età di 6 anni. Ma vorrei tranquillizzarla, il popolo del web che la disprezza è un'esigua minoranza, persino fra coloro che commentano sul web. Su 10 cretini, se 10 cretini scrivessero voglio una velina ariana sulla parete di un gabinetto pubblico, nessuno ci farebbe caso. Ma dal momento che adesso, scrive Gramellini, possono diffondere il loro verbo con telefonini e quindi farlo diventare una notizia, il sintomo di una malattia inesistente o comunque sovrastimata è questo. Mi creda, Micaela, la stragrande maggioranza degli ariani non è razzista, semplicemente la stragrande maggioranza degli italiani non ha altro da fare. Ci fermiamo. 57esimo Salone Nautico, dal 21 al 26 settembre a Genova. Vi presenta. State ascoltando un programma offerto da 57esimo Salone Nautico, dal 21 al 26 settembre a Genova. Ventiquattro mattino. Buca. Sasso. Buca. Insomma, lei come si chiama? Lei chi? La mia ragazza? Ma no, lei! Ah, io? Voi allora? Sono 10 anni che in Italia usiamo il voi e ancora non lo sapete? Buca con acqua. Memorabile il federale, ve lo ricordate? Ugo Tognazzi, il ventennio raccontato così. Mi viene in mente che la migliore sistemazione storica della nostra memoria più recente l'abbia fatta la commedia all'italiana, perché guardate che cosa è successo ieri con l'approvazione della legge e anche con le polemiche suscitate da una dichiarazione fatta da Emanuele Fiano, relatore della legge, proprio qui. Io sono sicuramente contrario all'abbattimento di monumenti. No, lui diceva solo di abbattere la scritta con riferimento a Mussolini Dux. L'abrasione della scritta è una cosa che è stata fatta in Italia in tanti posti. L'abrasione della sola scritta è giusta. È giusta. E via la polemica, perché oggi Libero, prima pagina, via le scritte Dux dagli obelischi, più che antifascisti sono ignoranti, Gianluca Veneziani. La verità, Francesco Borgonovo, vogliono abbattere i monumenti fascisti, però stanno zitti sui revival di Lenin. E poi il giornale, anche il giornale con la prima pagina, e devo dire, oltre al il PD sbianchetta il Duce, titolo divertente, Luciano Canfora, il re degli intellettuali antifascisti, ma fa un'intervista bellissima e io partirei direttamente da questa. Sono trovate ridicoli, scatenarsi sui simboli è solo fumo negli occhi. Bella l'intervista di Canfora, Matteo Sacchi sul giornale, perché è piena di riferimenti colti. Sentite, la guerra ai monumenti è un grande classico. Giusto per fare qualche esempio, nella Roma antica Silla fece distruggere tutti i monumenti dedicati al suo feroce nemico Mario. E poi Cesare li fece ricostruire. Durante la Rivoluzione francese vennero abbattute statue di re e di santi. Toccò anche a molte chiese demolite e trasformate in caserme. Più recentemente, racconta Canfora intervistato dal giornale, abbiamo avuto in Italia l'abbattimento di moltissime statue di Mussolini, è vero, ma dopo il luglio del 43, nei paesi dell'est l'abbattimento delle statue di Stalin, tranne due in Georgia, Stalin era georgiano, ovviamente è un qualcosa che si può spiegare per momenti caldi di conflittualità, quando ci sono tempi e sono passati anni, invece ci si aspetterebbe che prevalessero ragione di diverse tipo improntati a logiche più serene. Ha presente, sempre Canfora interrogato dal giornale, l'arco dell'imperatore romano Tito? Celebra la distruzione del Tempio di Gerusalemme. È un monumento quanto mai esacrabile per gli ebrei, ma nessuno si è mai sognato di chiederne l'abbattimento. Men che meno venne in mente al sindaco Ernesto Nathan, che era di origine ebraica. Nathan, come sapete, è un famoso sindaco del Risorgimento, anzi il primo sindaco, diciamo, progressista della Roma a cavallo fra l'Ottocento e il Novecento. Insomma, da un certo punto in poi, un monumento e basta, o è visto solo come un pezzo del nostro passato, chiede il giornale. Non esiste ovviamente un calendario universale che fissi la data in cui si può abbattere o no, ma in generale credo che si possa dire, dice Canfora, che scatenarsi sui simboli è una ginnastica inutile. Allora, l'obelisco campeggia un po' ovunque, è bella la storia, è venuto in mente ad Aristide Malnati sul Libero l'idea di raccontare che Roma è la città degli obelischi, e che questo, pensate, era un blocco monolitico in marmo di Carrara posto davanti al complesso sportivo del Foro Italico e trasportato in loco via Tevere. Un monumento che però nasconde un curioso segreto, un messaggio ai posteri di Mussolini in codice. Due studiosi, Bettina Retz-Jons e Hans Lammers, hanno in tempi recenti identificato un'iscrizione appena visibile sul marmo, quasi un messaggio criptato, tracciato dal Duce in modo poco leggibile, ma ovviamente da qualcuno per conto del Duce, dico io, ma con la certezza che i posteri sarebbero riusciti a decifrarlo, anche con l'aiuto di documenti all'epoca celati in biblioteche e archivi di Roma. Un testo in latino in modo da legare idealmente la rivoluzione fascista ai fasti della Roma antica. E voi sapete, anche in molte città di fondazione ci sono cose di questo tipo. A Carbonia, sotto la torre mussoliniana, c'è addirittura una pergamena seppellita da Mussolini. Stiamo parlando di fascismo esoterico, ma questo vi dice come quel blocco enorme di marmo sia un unicum e sia molto difficile abbradere. Fu ristrutturato, fra l'altro, da un sindaco in un periodo in cui amministrava un sindaco progressista, Rutelli. Allora, è interessante tutta questa discussione. Borgonovo, così chiudiamo questa carrellata sulla verità, dice... Scrive che questa operazione non lo convince affatto. Rispondere all'interrogativo sul perché sarà arduo e soprattutto sarà difficile per Fiano, una volta approvata la sua legge sulla propaganda del regime fascista e nazifascista, e escogitare un altro modo per farsi pubblicità. Sarà un'impresa sfibrante scodellare un'altra bestia nera, un altro sparacchio da agitare per terrorizzare le anime sfilacciate della sinistra che solo all'ombra del fascismo si riesce a cementare. cercare. Ecco, il pezzo di Borgonovo mette questo anello e dice che c'è una strumentalità. Io non credo che ci sia una strumentalità. Credo, lo dico ostinatamente, che Fiano sia convinto che questa sia la via migliore. Allora, passiamo ad altre cose perché è pieno di notizie interessanti. Ovviamente sulla politica, Pisapia viene scelto come leader dell'alleanza a sinistra del PD. Ma la stampa ci racconta una cosa molto importante, che potrebbe diventare in prospettiva molto importante, cioè che si può preparare, che si sta preparando, spunta il piano per un ricorso alla consulta. Anche al Senato giù le soglie e no alle coalizioni. Giuseppe Salvaggiulo ci racconta che un pool di giuristi rilancia: a gennaio potrebbe esserci una sentenza della Corte per riformare le regole. Vitale, voi dite cosa conta la legge elettorale, ma questa norma potrebbe cambiare la politica italiana quasi quanto il pasticcio siciliano del Movimento 5 Stelle. Giampiero Timossi sul giornale: stop al candidato Cancelleri, la decisione del tribunale dopo il ricorso di un attivista espulso. E la storia di questo dissenso che ha cambiato le elezioni siciliane, le ha sospese con tutto quello che comportano anche per le elezioni nazionali, la racconta bene il Corriere della Sera. La cosa interessante è che ovviamente dietro questo ricorso c'era una faida con una fronda, un pezzo dei 5 Stelle siciliani, fra cui Nuti, cosiddetti monaci, ex leader palermitano, ora sospeso per la vicenda delle firme, stava dalla parte di questo candidato Giulivi, che ha bloccato le regionarie. Candidato congelato. E poi altri personaggi: Giulivi, Mauro Giulivi, il ricorrente, un ingegnere ribelle, questo è un pezzo interessante di Felice Cavallaro, è compagno di una deputata, Chiara Di Benedetto. Questo per dire come l'intrico dei gruppi dirigenti pentastellati sia molto complesso. Allora, abbiamo visto cosa succede a sinistra, Pisapia ha scelto come leader, abbiamo visto che cosa succede nei 5 Stelle con questo break. Madonna, Silvio Berlusconi, vi ricordate? Meno male che Silvio c'è. Bene. Presidente, siamo con te, meno male che Silvio c'è. Silvio brevetta il partito della rivoluzione. Berlusconi regista in Europa il nome del listone per le elezioni del 2018. Dovrebbe sostituire Forza Italia. Chissà che non sia uno scoop, chissà che il partito della rivoluzione c'era, pensate, in Messico il partito della rivoluzione istituzionale che governava sempre ed era un partito conservatore. Ma questa voce, questo inno berlusconiano che ha fatto arrabbiare e divertire molti detrattori di Berlusconi, a me per esempio, io sono per quelli che siano divertiti, è stato scritto da Andrea Vantini, che parla oggi sulla Verità, una lunga intervista a Paolo Giovannelli, l'autore di Meno male che Silvio c'è, il brano che accompagnò il centrodestra alla vittoria del 2008. L'ispirazione mi venne dopo aver ascoltato in TV in una serata Attacchi furibondi al Cavaliere. Al successo iniziale sono seguite le discriminazioni per me nel mondo della musica. Vai Vantini, vai! Presidente, siamo con te. Quella forza che ha solamente chi è puro di mente. E per chiudere la vicenda della velina, per spiegare che qui, come nei casi di 5 Stelle, c'è sempre qualcuno che si arrabbia, spunta fuori, l'ho trovato nel pezzo di Claudia Casiraghi sul Libero, che c'è anche la terza classificata che si è arrabbiata, ma si è arrabbiata con la Neazze Silva, perché dice... sono stata discriminizzata perché senegalese. Questo è bellissimo. Micaela toglie il posto a una delle nostre ragazze, ha scritto su Facebook un utente, facendo eco a quanti sabato hanno criticato la scelta, perché la terza classificata di Miss Italia, la friulana di origini senegalesi, Samira Lui, era lì per lo stesso colore della pelle ed è stata esclusa. La stessa concorrente ha anche polemizzato con il conduttore dello show, Francesco Facchinetti, per aver sottolineato la sua origine africana. Ma tutta questa vicenda della velina ligure ma di origini africane, l'altra velina terza che è di origini senegalesi, non ci dicono che già esiste uno Ius Soli? Questa è la domanda che vi faccio in questo momento. Ci fermiamo ancora? Vai! Gondrand, il trasloco internazionale per la tua azienda è in mani sicure. Gondrand.it vi presenta "24 mattino". Questo, Luca Telese, buongiorno, il nostro numero 349-238-6666 e poi fra poco le telefonate al 800-24-0024. Questo è il pezzo da mandare a zappare la terra. Sulla verità, Giorgio Gandola, appassionato di montagna oltre che giornalista, racconta questa incredibile telefonata. Sentite, fermatevi! Sono qui sulla vetta con i tacchi a spillo e sono scomoda. Mandate l'elicottero, devo scendere. No! È una grande idea di pezzo, le chiamate al soccorso alpino di chi si improvvisa montanaro, irresponsabili che rischiano di perdere la vita in modo stupido. Sentite, un grande Gandola, il telefono del 118 delle Dolomiti squilla e l'operatore corre a intercettare l'emergenza. La chiamata arriva da uno smartphone, il piglio è quello del conte che userebbe un tono molto soffuso con il suo maggiordomo. Scusi, siamo in 5, ci troviamo nel bosco, è cominciato a piovere, per favore ci può mandare l'elicottero? Pausa, con 5 ombrelli a zappare la terra, non l'elicottero. E non è finita, ovviamente il pezzo è tutto da leggere e da godere, ma noi andiamo avanti. Istruzione, la grande incompiuta, scrive su Avvenire, è un editoriale molto interessante. Abbiamo, pensate, il numero dei laureati che sono meno della metà rispetto alla media dei paesi OCSE, in un contesto in cui il capitale umano sostituisce quello economico. Meno male che ce lo ricorda Avvenire, a zappare la terra e a studiare. Il grandissimo Apple Show raccontato da Finanza e Mercati del Sole 24 Ore, un pezzo per capire anche come si muove l'economia. Ormai un telefono muove l'economia. L'Apple Show non incanta Wall Street, e questo è il titolo che racconta con Luca Salvioli il lancio di Tim Cook, ma tra gli analisti nessuno scommette sulla mela. Quindi c'era un'aspettativa economica, ma non è partito l'indicatore. E chi invece chi è che va avanti lì? La Cina conquista la leadership sui telefonini. Gianni Rusconi è molto importante e anche qui c'è la partita fra America e Cina. Ma la grande rivoluzione sul fisco ci sarà, il Sole 24 Ore, l'apertura di oggi, da leggere assolutamente, mobili e parente, e poi l'editoriale di Salvatore Padula, partita IVA, pronti 70 indicatori, vanno in soffitta gli studi di settore per commercio, servizi e professionisti, le prime pagelle di affidabilità. E vi dicevo dell'editoriale di Salvatore Padula che fa un po' le pulci al capo dell'Agenzia delle Entrate, Ernesto Ruffini. Quello stesso sistema che va in soffitta e che l'Agenzia delle Entrate aveva fortemente difeso solo pochi mesi fa, e va detto prima dell'arrivo del nuovo direttore, negando che la raccolta, il funzionamento e l'invio dei dati avrebbe potuto creare difficoltà ai contribuenti, difficoltà invece enormi con le quali tutti sono alle prese ancora in questi giorni per l'invio dei dati e delle fatture. Quindi marcia indietro, meno male. Come funzionerà? 70 pagelle fiscali, la mappa dei nuovi indicatori di affidabilità per 1 milione di partite IVA, il 41% sono nel commercio. I nuovi guru, chi parla sul Corriere della Sera? Bill Gates, e parla di telefonini, parla di smartphone? No, non facciamoci illusioni, senza fondi e senza l'impegno le malattie aumenteranno. Intervista di Massimo Gaggi: abbiamo avuto un enorme successo con le vaccinazioni, la gente pensa che il rischio non ci sia più, sbagliato, è pericoloso. Siete pronti? Altra notizia Zappaterra: non ha pagato le rate, sequestrato il SUV a Muntari. Il centrocampista fermato con il suo bolide, fra l'altro un Mercedes, sapete, quelli un po' cararmatosi, alla frontiera con la Svizzera. Non è il primo, scrive Carlo Spasserini, e non sarà l'ultimo. Che la verità sia quella raccontata dallo stesso Salle ai Muntari, ai poliziotti che alla dogana di Chiasso gli hanno sequestrato la Mercedes per non aver pagato le rate. È vero, ha detto, sto attraversando un momento di grossa difficoltà. E voi sapete chi è Salle ai Muntari? Un giocatore, una bandiera, un simbolo, al centro di tante polemiche, ha giocato in grandi squadre, poi è passato anche al Pescara, se ne andò furibondo da Cagliari durante una partita denunciando un insulto razzista. Ghanese, 33 anni trascorsi non da comparsa con Inter e con Milan, da luglio è disoccupato, gira col SUVone e gliel'hanno sequestrato, e dispiace. Non si può non parlare di Mastella. E sapete perché? Perché io c'ero 9 anni fa, esattamente in quel giorno, quando ci trovammo tutti gli inviati italiani a raccontare l'incredibile vicenda degli arresti domiciliari della signora Sandra Lonardo. Io c'ero a Ceppaloni, folla, circo mediatico, i figli distrutti, la gente che inseguiva, i comizi con la sciarpa arancione al collo, la caduta del governo Prodi, c'ero. E adesso, dopo 9 anni, Mastella è stato assolto. Ho sempre detto che mi sarei difeso nei processi e lo farò, perché ho la fronte alta, l'orgoglio io e la mia famiglia di essere persone per bene. Io e la mia famiglia, anche a lei che ascolta là, siamo persone per bene. E abbiamo le mani pulite, pulitissime. Era accusato di aver imposto, conculcato addirittura Antonio Bassolino, ma figuratevi, per la nomina di un primario, quella che è, giusto o sbagliato, trattativa politica, il concusso, cioè Bassolino diceva nessuno mi ha obbligato a fare nulla, è stato indagato, ma la cosa incredibile, non può arrivare dopo 9 anni una sentenza su un fatto che ha cambiato la storia politica di questo paese e ha fatto cadere il governo Prodi. Quindi è una notizia che do con il senso del paradosso, con l'occhio del testimone e anche con la speranza che cose così non accadano più. GR, e ritorniamo subito dopo con grandi ospiti.